L'Africa alla prova del coronavirus. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. African countries are taking emergency measures to stem the spread of the coronavirus as the number of identified cases grows. COVID-19, the outbreak is posing a grave and a real threat to the lives as well as the livelihoods. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo è Lontano, vi porgo i saluti anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano, Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Luca Cremonese qui in assistenza e Filippo Aureggi in console. 349-238-6666, sms e whatsapp, anche se so che ormai preferite decisamente il WhatsApp al posto del obsoleto ormai per molti di voi SMS, ma li leggo entrambi. Per fare cosa? Beh, per commentare, porre domande e criticare il tema che è al centro della puntata di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano. L'epidemia di coronavirus sta iniziando a toccare, a lambire, in alcuni casi a inserirsi in maniera più prepotente anche nel continente africano. Con quali esiti, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico? Questo è il tema che vi sottopongo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Per commentare, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, i due account da tenere d'occhio e i quali cinguettare sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. Detto ciò, Filippo, anche quest'oggi la prima cosa da fare è andare a misurare la temperatura del nostro termometro internazionale. Biden vince, ormai è inarrestabile. Questo è stato uno solo dei titoli, soprattutto della stampa locale, dopo la consacrazione di Joe Biden al vero antagonista di Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca, perché martedì notte l'eterno secondo, come lo chiama qualcuno, ha fatto incetta di voti conquistando Illinois, Arizona e Florida, e il Florida evidentemente è uno stato chiave nelle primarie democratiche. E abbiamo fatto una ricognizione, Andrea Macchioni ci si è messo di buzzo buono fin dal mattino per andare a cercare di capire come la stampa, soprattutto locale, non tanto i grandi network come la CNN o il Time o il New York Times, ma i giornali locali abbiano raccontato questo evento. Per esempio, duro colpo inflitto a Sanders in una tornata elettorale che aveva dell'imprevedibile, tranne che il risultato, così il Miami Herald. L'Arizona Republic invece scrive: gli elettori si recano ai seggi e respingono Sanders, la nottata rinnova l'invito a ritirarsi, mentre il Sun Sentinel titola: Biden vince la Florida, sconfitta umiliante di Sanders. Come vi abbiamo già raccontato e come mai sapete, nessun bagno di folla per il vincitore, che invece ha seguito lo scrutinio dalla sua casa nel Delaware e in un discorso in rete ha ancora una volta cercato di in qualche modo catturare quello che è l'elettorato, soprattutto giovane, di Bernie Sanders. Già da un po' anche l'ultimo dibattito televisivo tra Biden e Sanders non ha visto uno scambio di affondi di fioretto veramente pericolosi, quasi come se la storia in parte fosse già scritta, e in sostanza quel flirt tra i due candidati probabilmente porterà un appoggio, evidentemente quello che spera Biden, anche di tutti i democratici di Sanders. Quel Sanders che sembra aver perso il supporto soprattutto degli afroamericani e degli operai bianchi, due gruppi che si stanno sempre più schierando con Biden. Sullo sfondo, ovviamente lo sapete, il coronavirus continua a condizionare questa strana campagna elettorale e addirittura solleva dubbi rispetto allo svolgimento delle votazioni stesse. In molti seggi c'è stata una flessione notevole. Timori questi per la salute degli elettori, evidentemente, che hanno spinto quattro stati, Ohio, Georgia, Louisiana e Kentucky, a posporre per il momento la chiamata al voto. Intanto arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, fra poco ve ne darò conto e risponderò anche per come posso, ma soprattutto saranno i miei ospiti a rispondere alle vostre domande. Mentre tutti gli occhi, tutti i riflettori sono puntati, parlo della Cina in questo momento, su Wuhan, che lo sapete vede la luce in fondo al tunnel, per usare una metafora poco medica, poco scientifica, forse in pochi hanno notato un'ulteriore stretta da parte del regime di Pechino sulla stampa internazionale. Proprio ieri la Cina ha dichiarato infatti che revocherà i permessi stampa ai giornalisti di 3 giornali statunitensi, dopo che gli Stati Uniti a loro volta avevano imposto restrizioni ai cittadini cinesi che lavorano negli Stati Uniti stessi. Vi ricordate? Sostanzialmente era come se fossero trattati alla stregua di funzionari di partito o dell'amministrazione cinese, poco meno che spie. Contromisure necessarie in risposta a una irragionevole oppressione subita dai media cinesi negli Stati Uniti. Queste le parole del governo di Pechino. A farne le spese il personale del New York Times, Wall Street Journal e Washington Post. Gli permessi stampa per poter lavorare in quasi tutti i paesi è necessario un permesso giornalistico per svolgere questa attività. Dei reporter di questi 3 grandi quotidiani scadranno entro la fine del 2020. Però ai giornalisti è già stato chiesto di restituire i loro permessi entro 10 giorni. Vedremo come andrà a finire. Ieri vi avevamo dato notizia dell'incontro che si sarebbe dovuto svolgere in videoconferenza tra il presidente turco Erdogan, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron. Con sorpresa dei media ha preso parte all'incontro anche il primo ministro britannico Boris Johnson. È proprio una nota diffusa da Londra che dice che i leader, dopo 1 ora e 15 minuti di colloquio, hanno concordato sulla necessità di un'azione multilaterale concertata per sostenere la risposta globale all'emergenza sanitaria e mitigare l'impatto del coronavirus sull'economia. Ma c'era ben altro sul tavolo, o meglio, c'era anche altro, cioè la questione siriana. I quattro, sempre secondo le dichiarazioni di Downing Street, hanno accolto con favore il recente cessate il fuoco a Idlib, però non hanno mancato di condannare il regime di Damasco, sostanzialmente attribuendo proprio a Damasco la responsabilità di questa crisi. Ancora una volta ci troviamo a uno scacchiere del Vicino Oriente, o Medio Oriente più vicino, totalmente impazzita, alla quale l'Europa unitariamente non riesce a prendere una posizione. È stato un trilaterale allargato all'ultimo momento a Boris Johnson che ha fatto scaturire queste dichiarazioni. In tutta onestà, al di là e oltre queste dichiarazioni non si vede moltissimo. Allora, prima di dar conto dei vostri domande, dei vostri dubbi, dei vostri commenti su quella che è il tema di quest'oggi, lo ripeto, il coronavirus arriva in Africa, bisognerà cercare di mettere qualche puntino sulle i, proprio sull'osservabilità del fenomeno, su quanto il sistema sanitario africano, l'Africa è un continente gigantesco, per cui dobbiamo distinguere tra Sudafrica, Namibia e ovviamente Marocco e Tunisia. Detto ciò, come quei sistemi sanitari potranno reggere l'impatto? Quindi, Filippo Reggi, andiamo in Africa. Iniziamo col dare i numeri, perché al momento sono, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 456 casi monitorati. L'Egitto ne ha 166 con 4 decessi, Sudafrica 62, Algeria 60 casi e 4 decessi, Marocco 38 casi e 1 decesso, Senegal 37, Burkina Faso e Tunisia 20 casi. Naturalmente non deve né stupire né dall'altro far tirare un sospiro di sollievo il fatto che i casi sono pochi, perché abbiamo visto la progressione di questo fenomeno. Sottolineo, mi permetto, non da tecnico ma da osservatore piuttosto attento delle vicende africane, qualche punto critico su questa misurazione. Vi sono interi paesi che sono sostanzialmente dei buchi neri. Sto pensando alla Libia, quella Libia che per esempio ha chiuso lo spazio aereo ma sostanzialmente non sta osservando né misurando il fenomeno. In generale si fanno pochissimi test, però mi permetto di aggiungere anche che molti paesi hanno iniziato un controllo sui voli dall'estero, quindi stiamo parlando già da gennaio. Il settimanale Genafric qualche giorno fa provava a mappare il continente anche visivamente con due approcci interessanti. Allora, il primo ovviamente la diffusione del virus basandosi sui dati dell'OMS. Il secondo la fragilità dei sistemi sanitari e la loro capacità di risposta. Ecco, dalla mappa emergerebbe che proprio i paesi più colpiti, Egitto, Sudafrica e Marocco, sono anche quelli con risposte sanitarie migliori. Ma evidentemente anche questo aspetto non deve stupirci più di tanto. Molto ragionevolmente chi ha una sanità che funziona in questo momento sta già facendo i tamponi e sta già osservando il fenomeno. Non è il caso, per esempio, della Repubblica Democratica del Congo, della Repubblica Centrafricana, sostanzialmente tutta la fascia prima del Sahel e poi subsahariana, che non gode, e perdonatemi il gioco di parole forse irriverente, i sistemi sanitari non godono di ottima salute. Un altro punto che poi toccheremo con uno dei nostri ospiti, ed è già stato sottolineato dalla prestigiosa rivista Science, soltanto il 3% della popolazione africana subsahariana è più vecchio dei 65 anni. In Cina arriviamo al 12%, quindi una popolazione giovane potrebbe essere evidentemente un vantaggio in termini assoluti. Altro punto che viene sottolineato da alcuni studiosi, e vi farò sentire anche la voce di una medico, di una ricercatrice sudafricana, molti scienziati, lo avete sentito, auspicavano, speravano che l'arrivo delle alte temperature potesse in qualche modo combattere il coronavirus. Ecco, Glenda Gray, che è ricercatrice al South African Medical Research Council, dice: beh, è plausibile, aspettiamo un attimo, vedremo, in aprile in alcuni paesi africani arriverà la stagione delle piogge, non farà mai freddo tanto quanto il nostro inverno evidentemente, però insomma potrebbe essere un primo segnale. Allora, un po' di commenti, un po' di messaggi alle notizie e alle cose che vi ho detto fino a questo momento. Un ascoltatore dice: quindi anche in questa situazione dobbiamo fare i babysitter dell'Africa. La prego, gentile ascoltatore, di circostanziare meglio quella che è la sua evidente critica, non ho capito rivolta a chi. Qualcuno torna indietro a quella che è l'espulsione da parte dei giornalisti, da parte della Cina, perdonatemi, dei giornalisti. Chi si fiderà ancora della Cina, chiede questo ascoltatore. Tutti i numeri che danno della ripresa post-virus saranno affidabili? Chi farà da report, da voce critica? A pensar male, ma forse realisticamente, mi viene da dire di no, così questo ascoltatore. Allora, il braccio di ferro che ormai esiste tra Washington e Pechino, che è di natura prettamente economica, ma non solo, poi si è spostato sul campo della tecnologia, vi ricordate quell'arresto in Canada del numero 2 di Huawei? E adesso, recentemente, nelle ultime settimane, è diventata una vera e propria lotta tra redazioni, ma che coinvolge soprattutto le redazioni statunitensi. Quindi vi sono, per esempio, inviati, cito quello del Guardian, per esempio, che ancora continueranno a lavorare in Cina. Detto ciò, non è certamente un buon segnale di trasparenza per il regime di Pechino quando mandi via pregevoli quotidiani prestigiosi come il Washington Post e il New York Times. Sono d'accordo assolutamente con l'ascoltatore. E se in Africa il virus si comportasse diversamente, vuoi per il clima, vuoi per la genetica delle popolazioni, viste le incertezze che hanno diviso anche gli specialisti sui vari argomenti fino ad ora, non si sa mai, vi pare? Buona fortuna a tutti, così Claudio da Verona, che aveva scritto anticipando in qualche modo quella che era l'elenco delle teorie che vi stavo sommariamente spiegando, che stanno girando in questo momento. Allora, cercheremo di punteggiare questa puntata con una serie di storie. Tutte queste storie arrivano da diversi paesi africani e dimostrano in qualche modo e in modi diversi le reazioni del coronavirus. La prima storia ci porta in Sudafrica. Andiamo in Sudafrica perché proprio domenica il presidente sudafricano ha dichiarato lo stato di emergenza. Da molti si solleva la possibilità che il grande aeroporto internazionale di Johannesburg sia uno dei punti vitali e di ingresso evidentemente anche del coronavirus, però per il momento non vi sono statistiche che possano corroborare questa tesi. Il Sudafrica per molti osservatori e analisti non è esemplificativo del continente africano, un po' per il passato coloniale, un po' per la grande apertura verso l'estero, livelli di reddito differenti, livello di tecnologia, però insomma anche in Sudafrica, con un sistema sanitario diverso dagli altri, si deve affrontare questa emergenza. Come? Ecco la prima storia. Domenica il presidente Ramaphosa ha dichiarato lo stato d'emergenza imponendo diverse misure di sicurezza, tra cui restrizioni sugli assembramenti di più di 100 persone. Il decreto riguarda scuole, università, trasporti pubblici e chiese. Le comunità religiose si sono organizzate in diversi modi. Il pastore Mboro della chiesa Alleluia International Ministries afferma di aver profetizzato nel 2019 ciò che sarebbe accaduto. Ha poi aggiunto che la programmazione della chiesa continuerà come al solito, invitando i membri della sua chiesa a praticare una buona igiene. Dio mi ha mostrato che l'epidemia sarebbe avvenuta quest'anno. Ci stiamo preparando, stiamo pregando. Più di ogni altra cosa, questa è una chiamata per affidarsi a Dio. Dobbiamo lavarci le mani e mantenerci puliti. Dobbiamo anche mangiare più sano e bere molta acqua al limone. La comunità di Hillsong Church South Africa ha invece optato per funzioni domenicali online dopo la decisione di sospendere temporaneamente le riunioni della Chiesa domenicale a partire da domenica 22 marzo 2020 al fine di limitare i contatti fisici. Per la Seven Days Adventist Church non sono ammesse funzioni con più di 100 persone. Quindi, per esempio, si possono organizzare due o tre fasce orarie per le funzioni e dividere i fedeli in gruppi e designare una fascia oraria di culto per ciascun gruppo. E naturalmente prestare grande attenzione a disinfettare adeguatamente l'aula della chiesa. Questa è la prima cartolina che ci arriva dal Sudafrica. Paradossalmente, da un lato c'è qualcuno che si affida in maniera poco laica e poco scientifica esclusivamente alla fede, sono predicatori che sicuramente possono essere considerati irresponsabili, qualcun altro invece che riesce a mitigare le esigenze spirituali con invece un comportamento sanitariamente corretto. Proprio quel Sudafrica che ha uno dei sistemi sanitari migliori di tutto il continente africano. Tra pochissimo vi porto a Ouagadougou, andiamo in Burkina Faso perché l'abbiamo sottolineato nelle scorse puntate e continueremo questo viaggio in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Sono tante le Afriche che dobbiamo raccontare, tanti sistemi sanitari diversi, tanti flussi migratori diversi. Nel caso del Sahel e del Burkina Faso c'è anche una guerra in corso e questo ci ricorda tristemente quel benefico cocktail che si concretizza quando a un'epidemia si somma una guerra a bassa intensità. Sto passando al Congo, a Ebola. Proprio pochi giorni fa è stato festeggiato l'ultimo paziente guarito di Ebola. Il Congo pensava di tirare un sospiro di sollievo, poi è arrivata una furiosa epidemia di morbillo e adesso c'è anche l'allarme per il coronavirus. 349-238-6666, c'è chi stigmatizza appunto il comportamento di chi va in chiesa nonostante tutto. Lo stesso ascoltatore, prima di stigmatizzare il comportamento dell'Unione Europea, mi chiede se penso ora che se l'Africa scoppia dobbiamo importare ancora gente, anche infetta, poverina, ma qua non è questione di scoppiare, certamente non i flussi migratori dei malati dal Sudafrica, i vari paesi africani stanno chiudendo tutto, quindi si troveranno esattamente nella nostra stessa barca se non con sistemi sanitari che in alcuni casi, ai noi, ci faranno mettere le mani nei capelli. Altri messaggi al 349-238-6666. Il legame tra la famiglia del coronavirus, gli animali, è una questione scientifica. È un ascoltatore, perdonatemi, Davide fa un messaggio un poco lungo e sostanzialmente lui dice dovremmo farci qualche domanda sul nostro modello di sviluppo alimentare, quindi anche agricolo e sociale, visto che una serie di epidemie derivavano proprio dagli animali. Non ho assolutamente le competenze per poterle rispondere, però le ho dato voce. Nel frattempo Antonio Taglia, pur a distanza, mi fa notare che è vero che Pechino non ha rinnovato i visti, non rinnoverà i visti, entro 12 giorni se ne devono andare, Washington Post e New York Times fra gli altri, ma le stesse testate possono mandare altri inviati, così anche per precisioni innanzitutto, quindi vi chiedo scusa dell'informazione che non era esattamente corretta, e anche per fugare i dubbi di alcuni di voi che dicevano ma attenzione, vanno via i prestigiosi giornali internazionali, come facciamo a essere sicuri di quello che accade in Cina. Allora adesso proseguiamo nel nostro volo d'uccello su una situazione che per forza di cose è estremamente fluida, quella del coronavirus nei vari continenti africani. Proviamo a dividere molto molto sommariamente quello che è la zona del Nord Africa, sistemi sanitari più solidi, però anche una grande osmosi con l'Europa, la zona subsahariana dove è veramente terra di nessuno, ISIS, Al-Qaeda, una guerra a bassa intensità e già ci sono alcuni casi, poi l'Africa subsahariana fino ad arrivare a Sudafrica dove ritroviamo una eccellenza, in parte infrastrutture, in parte università, quindi se volete proprio la punta di diamante rispetto agli altri paesi. Ci fermiamo e ci soffermiamo per un attimo nel Sahel, lo facciamo con la voce di Moren Yambonge, che è direttore del quotidiano online Wakat Sera. Ci ha risposto alla domanda: qual è la situazione in questo momento? Vi sono 20 casi di coronavirus, ma l'abbiamo ripetuto tante volte, è in corso una vera e propria guerra contro i gruppi jihadisti. Ascoltate la voce del collega. Oui, bonjour. Il faut dire que le Burkina Faso, c'est vrai, est déjà confronté à plusieurs difficultés. Sì, bisogna dire che il Burkina Faso è già stato colpito da molte altre difficoltà. Abbiamo già questa ondata di attacchi terroristici che sta seriamente spaventando la popolazione e che ha provocato la morte di molte persone. In più, adesso è arrivato il coronavirus, ma va detto che il governo sta adottando alcune misure. È stata approvata una forma di quarantena, anche se al momento non è ancora completamente rispettata, perché per ora si tratta di una raccomandazione. Così, le scuole e le università rimarranno chiuse per 2 settimane, ma i luoghi pubblici, i mercati e i ristoranti per il momento non sono obbligati a seguire queste indicazioni. L'ultima volta che ho attraversato la strada principale di Ouagadougou qualche giorno fa, c'erano ancora molti ristoranti e negozi aperti, e mi sembra che al momento i mercati non stiano prendendo alcuna precauzione. La misura che la gente sta chiedendo con più decisione al governo è la chiusura degli aeroporti, nonostante si tratti di alcuni dei luoghi più controllati del paese. All'aeroporto di Ouagadougou, ad esempio, i poliziotti sono muniti di termometri flash per controllare la temperatura dei passeggeri appena sbarcati. Tutti i passeggeri, inoltre, vengono fermati e devono rispondere a domande sulla nazione di provenienza e su eventuali contatti, eccetera. Questa è la fotografia che ci arriva da Ouagadougou, dal Burkina Faso. Le reazioni da parte di alcuni paesi africani sono più lente di altri. In alcuni è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati vietati gli assembramenti, non si può andare ad alcune cerimonie religiose. In altri paesi massimo 100 persone, come avete sentito. Moren Yambonge, che dirige il quotidiano online Wakat Sera, ci sta dando un quadro in una delle situazioni dei paesi forse più nevralgici e più sensibili, proprio per il sovrapporsi di una crisi nella crisi, il coronavirus e anche gli attacchi jihadisti. Ma come è arrivato il virus in Burkina Faso? Sentite ancora il collega. Il primo caso conosciuto ufficialmente è quello di un pastore evangelico e di sua moglie, rientrati in Burkina Faso da un grande raduno cristiano che aveva avuto luogo in Francia. Queste due persone non si sono ammalate subito e sono due personaggi molto famosi, che purtroppo hanno avuto modo di vedere molte persone prima di essere messi in quarantena. Oggi le stime ufficiali indicano che ci sono 27 casi, ma bisogna dire anche che il Servizio Sanitario Nazionale sta diffondendo messaggi per evitare al massimo i contatti tra le persone, inclusi i raduni religiosi. La settimana scorsa parlavamo di qualche decina di persone che si sono messe in fila per sottoporsi ai test, ma adesso questi numeri stanno salendo. Inoltre, oggi abbiamo avuto il primo decesso ed è la prima vittima dell'Africa subsahariana. Si tratta di una signora che soffriva già di una patologia diabetica. La signora era già ammalata e io non sono uno specialista, ma di sicuro non dobbiamo abbassare la guardia. Tra le misure adottate finora, la più efficace mi sembra la chiusura delle scuole. Ancora una volta la voce di Moren Yambonge, direttore del quotidiano online Wakat Sera. La voce arriva da Ouagadougou e cerca di fotografare un fenomeno per il momento embrionale, ma ancora una volta fatemi sottolineare come la fragilità di alcuni paesi africani renda questo rischio assolutamente altissimo. Detto ciò, Filippo, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Una bomba a orologeria, così Science oggi titolava parlando dell'arrivo del coronavirus in Africa. L'Africa riceve il coronavirus, c'è propagazione, ma lentamente, faceva eco il New York Times. Anche i grandi media ormai si stanno occupando, Jeune Afrique in primis ovviamente, di quella che è la diffusione del coronavirus in Africa. Diffusione difficilmente misurabile, l'abbiamo sottolineato, le strutture sanitarie sono molto lontane dagli standard occidentali ed europei, quelli a cui noi siamo fortunatamente abituati. E in alcuni casi però vi sono delle eccellenze, su tutte evidentemente stavo citando il Sudafrica, ma un'ascoltatrice via Facebook, Giulia, che vive a 3 anni da Johannesburg, vuole sottolineare l'aspetto che va sottolineato, cioè sanità pubblica e sanità privata. Chi vive nei quartieri ricchi o in quelli poveri, quindi per quelli che sono poveri che devono andare nella sanità pubblica, buona fortuna a loro, così conclude Giulia. Poi c'è qualcun altro che dice: chi lo fa, chi si affida alla religione lo fa perché non ci sono alternative. Non vanno criticati, sono quelli che poi finiranno negli ospedali pubblici, che sono assolutamente fatiscenti, andando ancora una volta a illuminare una delle grandi fragilità della maggior parte dei paesi africani. Poi, come dire, per omaggiare quell'adagio, forse stucchevole per molti di voi, ma tutto il mondo è paese, succede, ne abbiamo parlato proprio ieri, che anche in tempi di coronavirus in Africa si propaghino le fake news. La seconda storia ci porta in Kenya. In Kenya, dove finora sono stati accertati solo 7 contagi, il coronavirus sta generando fake news che arrivano fino in tribunale. Ieri, secondo quanto riporta il quotidiano locale keniano Daily Nation, si è celebrato il processo a carico di Silvia Dindakalehe e di Pravan Mahendra Panchori, 2 cittadini keniani accusati di truffa per aver diffuso pubblicità online sulla disponibilità di tamponi da test per coronavirus. I tamponi venduti dai 2 non erano in alcun modo adatti a indicare la presenza del coronavirus. A causa dei timori per il contagio e per via dell'alto numero di persone che chiedevano di assistere al dibattimento, la giudice Mutoni Zibe ha ordinato di celebrare il processo all'aperto, nel cortile del tribunale di Millimani. Conclusa l'udienza, la giudice ha chiesto che anche tutti i prossimi processi possano essere celebrati all'aperto, una misura che potrebbe presto venire adottata anche nel resto della nazione. Ma sarà sufficiente per non gettare olio sul fuoco, per non aggiungere crisi su crisi? Adesso la prossima ospite, che è abituata a crisi, è infettivologa e presidente di MSF, attualmente ci sta rispondendo da Lodi. Come dire, da una prima linea a un'altra, una che sta montando, quella africana, una ai noi consolidata nella provincia di Lodi, e Claudia Lodesani, infettivologa, lo ripeto, è presidente di MSF. Dottoressa Lodesani, buongiorno, ben ritrovata nel suo luogo lontano. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Allora, oggi, Presidente, noi stiamo cercando di, molto sommariamente, dare qualche fotografia, qualche spunto di quella che è la diffusione del coronavirus in Africa e di come sta reagendo. Come potrebbe reagire, vista la sua esperienza, visto il passato, sto pensando anche a Ebola, tanti paesi ha colpito quel virus in Africa e ha fatto, come dire, ha consolidato anche nel lessico diffuso una parola, no? Resilienza, quindi questa capacità di resistere agli urti della vita, in questo caso estremamente tragici. Come potrebbe reagire l'Africa, secondo lei, dottoressa? Ma è molto difficile da dire, perché comunque ci sono sempre 2 piani. Uno è come reagisce il sistema sanitario e quindi le istituzioni, e l'altro è come reagisce la popolazione. Come può reagire la popolazione dipende, probabilmente ci sarà chi tendenzialmente ha già vissuto l'Ebola e quindi forse tende a minimizzare, chi invece non ha mai vissuto l'epidemia e che quindi avrà un po' la paura, certo. Come c'è qui, quindi anche qua dipende molto, cioè, l'Africa è molto grande, certo. Le esperienze dei paesi sono molto diverse. Certo. Che lezione potrebbero aver appreso quei paesi tragicamente colpiti dall'epidemia di Ebola? Ricordiamo 2014, West Africa, Sierra Leone, Liberia e Guinea, e recentemente Repubblica Democratica del Congo. Nell'Africa dell'Ovest vi furono 11.000 morti, fu qualcosa di veramente funesto. Ecco, quella lezione, in senso buono evidentemente, no? Può aver attivato degli antivirus anche a livello culturale, sociale, sanitario per quelle popolazioni? Beh, quello che è stato fatto da tutti, sia insomma da Medici Senza Frontiere che dalle altre agenzie che lavoravano sull'Ebola, e durante l'Ebola è sempre stato quello di rassicurare la popolazione, di spiegare cosa si fa per proteggersi a queste infezioni. Quindi dopo l'abbiamo fatto per mesi, forse in alcuni casi anche per anni, speriamo che queste norme base siano rimaste e che quindi questo praticamente le serve anche per reagire a questo nuovo virus. Sì. E del resto è chiaramente tutto quello che è trasmissione delle malattie infettive, essendo invisibili, crea sempre un po' di paura perché non lo vedi, quindi non lo puoi combattere, quindi questo crea paura un po' in tutte le persone, ovviamente loro avendo già vissuto l'Ebola, dove ricordo che la mortalità era del 70%, quindi era molto più alta. Sì. Chiaramente il panico che si generava e poi colpiva in maniera trasversale tutte le età. Probabilmente sono un po' più abituati a avere, un po' più fatalisti anche in questo caso, però ripeto, anche lì le comunità reagiscono in modo molto diverso. Certo, e la dottoressa Claudia Lodesani è presidente di MSF, infettivologa, ci sta parlando da Lodi e noi con un doppio salto mortale la stiamo trascinando con la mente e il pensiero e la sua competenza a quello che è il teatro africano, però è fresca, si fa per dire, di ritorno di missione da Haiti, dove è un'altra situazione che in realtà ha degli elementi estremamente sovrapponibili con molti paesi africani: mancanza di infrastrutture, grande povertà diffusa, assenza di sistema sanitario. Ecco, lì come state lavorando voi di MSF e che lezione, che insegnamento si può trarre da quel circoscritto campo d'azione che è Haiti? Sì, ad Haiti è un po' quello che secondo me succede anche in altri paesi appunto dell'Africa, chiaramente si crea una task force come anche si è creata qua, dove fa parte il Ministero ovviamente e l'OMS, e dove noi ci sediamo al tavolo insieme a loro come supporto tecnico. Diciamo che questa task force cerca di prevenire, visto che vede quello che succede qua, e quindi si cerca di provare a mettere in campo tutto quello che si può per provare a prevenire o comunque essere pronti all'arrivo del primo certo. paziente, sperando che non certo. ci sarà mai. Chiaramente certo. la situazione è diversa perché hai delle città dove hai delle densità di popolazione molto elevate, come Port-au-Prince, come può essere Kinshasa, insomma, quindi queste, e poi in realtà uscite dalla città hai degli spazi molto più vasti, quindi anche lì sapere come sarà trasmesso e come si comporterà l'epidemia per ora è molto presto ed è difficile da immaginare. Certo, paradossalmente la presenza di grandi territori, il non sovrappollamento, appunto la bassissima densità in vaste zone del Sahel, ma tante anche zone africane delle subsahariane, sto pensando alle foreste impenetrabili, potrebbe essere un ottimo muro contro la diffusione del virus. Certo, se penso a Nairobi, a Kinshasa, a Dakar e altre grandi città dove spesso vi sono bidonville attorno al nucleo urbano principale, ecco, lì la situazione potrebbe essere decisamente più drammatica. Dottoressa Lodesani, presidente di MSF, le approfitto della sua presenza per un'altra domanda che è stata evocata in altre puntate di Nessun Luogo Lontano e qualche devo dire anche di cattivo gusto, ma soprattutto per lessico usato, commento di qualche ascoltatore che prima diceva dobbiamo fare da balia ai poveri africani che arriveranno per giunta ammalati. Ecco, mi dia un suo commento, un suo giudizio sul rischio. Gli sbarchi sono minimi in questo momento, evidentemente, soprattutto in provenienza dalla Libia. Quanto alto è il rischio di arrivi di ammalati di Covid-19 con le barche delle ONG? Allora, chiaramente non possiamo dire che il rischio è zero, perché questo non lo possiamo sapere ed è un'affermazione che sarebbe troppo azzardata e sì. sbagliata. Chiaramente bisogna analizzare il contesto da cui partono da un paese dove c'è una guerra, dove non ci sono scambi commerciali, non c'è turismo, non c'è una popolazione che si muove, e poi queste persone sono rinchiuse in centri di detenzione, quindi hanno lasciato il loro paese d'origine molti mesi fa, a volte anche qualche anno fa, rimangono in centri di detenzione dove non hanno scambi e poi vengono imbarcati. Quindi ovviamente il rischio di essere venuti a contatto con qualcuno che è già stato infettato, che quindi può trasmetterlo, è molto basso, ma sì. ovviamente non si può dire che è zero, però è ovviamente molto più basso che sbarcare e incontrare invece qualcuno qui in Italia che è già venuto a contatto col virus. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E ne approfittiamo per ricordarlo, evidentemente ancora una volta non ci stancheremo mai, restiamo a casa, tutti quelli di noi che possono farlo lo facciano. Grazie mille a Claudia Lodesani, lei di certo non può farlo perché MSF si occupa proprio di queste emergenze, per cui un grandissimo in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, alla prossima. Allora, Filippo Reggi, che ne dici se a questo punto come dire, stravolgiamo un po' la grammatica musicale. La prossima storia, che arriva sempre dal continente africano, ha a che fare proprio con la musica, perché al di là dei cliché, delle retoriche anche più paternalistiche, la musica ha una potenza estrema, soprattutto in alcuni dei paesi africani. Ascoltate con me. Canzoni allegre, canzoni divertenti, canzoni che arrivino dritte all'orecchio della gente con un messaggio importante. Come comportarsi per proteggersi dal coronavirus. L'Africa sceglie la musica come canale efficace per sollecitare l'attenzione sull'emergenza Covid-19 e sull'importanza della prevenzione. Così il coro Ndlovu Youth Choir, diventato noto grazie all'edizione 2019 di America's Got Talent, dal Sudafrica sta diffondendo video virali sull'importanza di piccoli gesti, come lavarsi le mani, non avvicinarsi troppo agli altri, non toccarsi il viso. Anche la cantante nigeriana Bukola Elemid, in arte Asa, sta sfruttando la propria popolarità per diffondere maggiore consapevolezza sul virus e su Instagram ha di recente pubblicato questo messaggio. Hey guys, remember to always wash your hands. Wash the back, wash the front, wash the inside. The fingers, each one, you should wash it. And if you sneeze, you should dab. If you cough, you should dab. If you sneeze again, dab, dab, dab, dab, dab. Ma l'iniziativa non coinvolge solo i volti noti del mondo della musica, bensì tutti i comparti della società. Molte comunità religiose, ad esempio, sono in prima linea sul fronte della prevenzione e della lotta alle false credenze sul virus, come la Zion Christian Church a Randburg, Sudafrica, dove i casi di coronavirus accertati sono 62. Questa è la terza storia che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in cui stiamo cercando di capire come il continente africano, pur con le sue mille diversità, stia affrontando e possa affrontare in futuro l'epidemia di coronavirus. Ci sono un po' di messaggi arrivati al 349-238-6666, ve ne darò conto subitissimo. Prima però facciamo una cosa, andiamo a sentire la viabilità. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, quest'oggi prova a illuminare tante zone d'ombra, quelle in alcuni paesi africani dove non è possibile né monitorare il coronavirus né sapere esattamente se i dati sono attendibili. Per il momento, come ricordava il New York Times, l'aggressione da parte dell'epidemia al continente sembra piuttosto lenta. I vostri messaggi: ci sono casi di cittadini libici positivi di ritorno dall'Iran, quindi non è da escludere che i migranti che sostano in Libia non siano a loro volta positivi a Covid-19, così un ascoltatore, ma mi sembrava che la presidente di MSF Claudio Lodesani non avesse escluso questa possibilità, semplicemente stressava il fatto che forse è addirittura è paradossalmente più difficile lì che in questo momento in Europa. Detto ciò, spostiamoci ancora una volta, un altro paese africano, l'Etiopia. Perché in Etiopia? Beh, perché l'Etiopia, per esempio, ha avuto, adesso ovviamente molto meno per questa crisi, una serie di scambi intercommerciali con la Cina, alti, altissimi. Ricordo le tante imprese cinesi coinvolte in tanti distretti, quello tra quelli forse meno noti c'è un enorme distretto calzaturiero, con grande manodopera anche cinese nei dintorni di Addis Abeba. Abbiamo raggiunto un medico africano, Ademez Gaye, che lavora con QAM, Medici per l'Africa. Al momento sono 6 i contagi in Etiopia. Nel frattempo il premier Abiy Ahmed ha annunciato chiusura di scuole, università del paese, chiedendo agli studenti di non spostarsi e di non fare ritorno, quel fenomeno a cui abbiamo assistito invece qua in Italia. Qual è il livello di preparazione dell'Etiopia rispetto a questa crescente minaccia? E sentite che cosa dice il dottor Tsegaye ai nostri microfoni. Dall'inizio dell'epidemia in Cina, il governo etiope ha preparato un piano di reazione all'emergenza per prevenire la diffusione del coronavirus, immaginando tre diversi scenari. Dal migliore, in cui non si registravano contagi, al peggiore, in cui il coronavirus si è diffuso in tutto il paese. Sebbene l'Etiopia abbia preparato questo piano, il sistema deve già affrontare molti problemi, come la diffusione di malattie trasmissibili e non trasmissibili. E il sistema sanitario è già sovraccarico. Inoltre, ci sono molti sfollati interni e rifugiati provenienti da altri paesi. Questa è la voce del dottor Tsegaye di QAM Medici con l'Africa. Vi ricordo che fra le cose che vengono fatte, lo ricordava anche la presidente di MSF, Claudia Lodesani, è soprattutto cercare di lavorare con i sistemi sanitari locali. In Sierra Leone, per esempio, QAM fa parte della task force nazionale per il contenimento del virus e va a gestire che cosa? Il servizio nazionale di ambulanze, che peraltro ho avuto modo di chiacchierare con i medici che hanno messo in piedi quel servizio, e vi assicuro che è uno sforzo incredibile. Noi molto spesso abbiamo la lente tipicamente occidentale europea e pensiamo, beh, stiamo male, chiameremo l'ambulanza. Ecco, in alcuni paesi non c'è il servizio di ambulanza e immaginate che sforzo logistico, di comunicazione e proprio organizzativo debba essere organizzare un servizio di ambulanza dove, non sto neanche a dirlo, la qualità delle strade è quella che è. Un ascoltatore intanto mi rimbrotta sulla questione migratoria, va bene, prendi in casa tua tutti quelli che vuoi, nel caso mi fido della dottoressa. Io stesso mi sono fidato della dottoressa, stavo semplicemente contestando un certo linguaggio. Voi lo sapete che ammetto qualsiasi domanda o critica, non la volgarità, le offese, il sessismo e la xenofobia, quello assolutamente no. Abbiamo pochi minuti fa raggiunto, ve lo dicevo, Glenda Gray, che è presidente del South African Medical Research Council. Torniamo in Sudafrica, torniamo in quel Sudafrica che dal punto di vista della sanità, quantomeno privata, è sicuramente un'eccellenza, e il Sudafrica esso stesso è un paese a macchia di leopardo. E sentiamo la fotografia di quella situazione nelle parole di Glenda Gray. Lo ricordo, è una dottoressa e una scienziata che tanto ha lottato per anni, esperta soprattutto di diffusione di HIV in Sudafrica. Sentite la sua risposta. On Sunday night our president declared a state of national disaster in our country. L'epidemia di Covid-19 in Sudafrica è iniziata 3 settimane fa. Da allora i casi, racconta la dottoressa, si sono accumulati rapidamente. Adesso ne abbiamo 80. Mi sembra che siamo sulla stessa traiettoria dell'Italia, dice la studiosa. All'inizio le trasmissioni erano soprattutto tra persone arrivate da fuori, dall'Europa o dagli Stati Uniti, ma adesso iniziamo ad avere le nostre trasmissioni all'interno, il che significa che siamo a rischio di diffusione tra l'intera comunità. Siamo molto preoccupati perché viene messa alla prova la nostra abilità di fare i test, e l'altra grande preoccupazione riguarda la disponibilità di abbastanza posti letto negli ospedali. People who have been traveling from high to medium risk countries will have to go into self isolation. In terms of our government response, obviously we are concerned that we Allora, al 349-238-6666 un ascoltatore o ascoltatrice dice: i contagi reali non si sanno nemmeno in Italia, pertanto come si fa a dire che in Etiopia sono 6 e sono quelli monitorati, sono quelli osservati, lo dicevamo quando citavo sia Science che African Arguments, per esempio, o Jeune Afrique, a seconda come dire, se siate anglofoni o francofoni. E sto parlando della stampa internazionale, che cercavano di fotografare il fenomeno. Ecco, il primo grande vulnus in questa analisi è che tanti paesi sono zone grigie, non vi sono rilevazioni. Pensate alla Libia, per esempio, pensate alla Repubblica Centrafricana, cioè vi sono dei paesi dove assolutamente non sono disponibili i dati. Da un lato questo, come dire, potrebbe far preoccupare, dall'altro, se andiamo a vedere, sono molto spesso paesi in cui le barriere geografiche sono così alte che probabilmente, come già nel caso di Ebola, Ebola congolese, quella più recente, è difficile ipotizzare una grande diffusione. Allora, poi c'è stata, ve lo dicevo, è l'ultimo stralcio dell'intervista che vi faccio ascoltare probabilmente della dottoressa Glenda Gray, lo ricordo, presidente del South African Medical Research Council. Si è molto dibattuto anche qui da noi in Italia, in Europa, dicendo arriverà la bella stagione, si alzeranno le temperature, forse sarà uno strumento efficace per battere il coronavirus. Abbiamo rivolto a lei questa domanda proprio in un continente, quello africano, che tranne il Sudafrica normalmente ha un clima decisamente più caldo. Sentite cosa dice. So we're not sure what the natural history or how COVID-19 behaves in Africa. Some of the thinking has been that the epidemic has been delayed. Non conosciamo la storia del coronavirus e non siamo sicuri di come potrebbe comportarsi in Africa. Alcuni pensano che l'epidemia, dice la dottoressa, sia stata ritardata in Africa per il fatto che ora siamo in estate e che le epidemie di influenza solitamente si registrano nei mesi invernali. Si pensa che il fatto di trovarci in estate possa essere una delle ragioni per cui non abbiamo ancora assistito a un'epidemia come è successo in altri paesi. Ma pensiamo che quando arriverà l'inverno nel Sudafrica la situazione peggiorerà e che la diffusione sarà maggiore. Quindi la probabile ragione per cui c'è stato un piccolo ritardo in Africa ha a che vedere proprio con il fatto che siamo ancora nei mesi estivi. As winter starts to emerge in South Africa, things will get worse and that that the spread will be further, will happen much quicker in the winter months. Questa è la voce di Glenda Gray, presidente del South Africa Medical Research Council, l'ha raggiunta Ilaria Sesana pochi minuti fa e questo è il motivo per cui mi vedete costretto a interpretare, a mettermi nei panni evidentemente della dottoressa sudafricana. Sostanzialmente va a ripercorrere quello che è il pensiero di tanti medici qui in Italia, la progressione è quella, il ritardo può essere dovuto a una serie di fattori. Mi permetto però di illuminare quello che è un altro aspetto che illuminava proprio la stessa Jeunafrique cercando di analizzare il fenomeno, proprio quei paesi con maggiori interscambi commerciali non soltanto con la Cina a questo punto ma anche con l'Europa hanno importato sostanzialmente il coronavirus. Se andiamo a guardare i casi, è un'ipotesi evidentemente, ma pare suffragata da alcuni dati. Tunisia e Marocco, per esempio, hanno alti casi, Egitto, tutti i paesi che hanno una certa osmosi proprio con l'Europa. In Sierra Leone, per esempio, tutti i casi positivi importati arrivavano da viaggi nel Regno Unito o negli Stati Uniti. Quindi, in buona sostanza, anche per rispondere in parte a quello che era il timore di alcuni degli ascoltatori, non è che il virus si sta muovendo dall'Africa verso l'Europa, ma è esattamente il contrario. Gli africani purtroppo se lo sono trovato dentro casa. 349-238-6666, 45 secondi, vi lascio con un'interessante questione e ci torneremo, ve lo prometto, nei prossimi giorni. Il messaggio recita testualmente: chissà cosa succede, aggiungo io, cosa succede nella Corea del Nord, ma lì non riescono a entrare e uscire nemmeno i virus. Torneremo su questo tema perché il tema delle epidemie, delle emergenze nei regimi particolarmente chiusi e refrattari, beh, insomma, quello è un tema perché attiene alla trasparenza. In questo momento l'intero mondo, l'intera comunità internazionale deve essere trasparente. Non è retorica, evidentemente, ma è nell'ordine delle cose. Detto ciò, Filippo Reggi, una sola parola. Perfetto. Che è il preludio ai titoli di coda e ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, è un ordine, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.